You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Meadow, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due. Sei nutezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Benvenuti, bentornati, ancora una volta indovina chi viene a cena, profumo di spezie, di cibo che arriva da lontano, che racconta di una storia di fuga e poi di rinascita. Radio 24 oggi, perché parleremo di un'iniziativa dell'UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, in collaborazione con una ONG, la Food Sweet Food, e parliamo del Refugee Food Fest, un'iniziativa che inizierà il 15 di giugno fino al 30 di giugno, in cui i giovani rifugiati in Italia mostreranno le loro doti in cucina. Si terrà in 13 città europee, fra cui anche Firenze, Roma, Milano e Bari. È la seconda edizione di questo festival in cui i ristoranti apriranno le loro cucine a degli chef rifugiati da paesi come l'Afghanistan, l'Eritrea, la Somalia, la Siria e l'Ucraina. La prima edizione ha avuto luogo a Parigi nel giugno dell'anno scorso e ha avuto un grandissimo successo, quindi è stata riproposta ed ampliata. Ma qual è il senso di questa iniziativa? Ne parliamo con Carlotta Sami, portavoce UNHCR Italia, Agenzia ONU per i Rifugiati. Benvenuta. Grazie, grazie, grazie a voi. Il senso dell'integrazione è il senso di un'Italia, un paese che, al di là del fatto che tante persone ancora stanno arrivando, in realtà sta entrando in una fase successiva, ormai già da un paio d'anni, a quella dell'arrivo, e che sta sviluppando una capacità anche di integrare. Questa giornata mondiale del rifugiato, che è il 20 giugno, noi l'abbiamo voluta proprio dedicare al fatto che abbiamo la sensazione e incontriamo ogni giorno tantissimi migliaia di italiani che lavorano con i rifugiati di fatto, o nell'accoglienza ma anche nelle piccole imprese, e quindi abbiamo voluto creare e dare evidenza di questo attraverso quelli che sono gli elementi fondamentali anche della cultura italiana. Il cibo è fondamentalmente un pilastro, ed è proprio nel cibo e in tutto quello che è l'industria anche che ruota attorno al cibo che molti rifugiati hanno trovato un impiego, e che molti italiani hanno trovato un incontro con i rifugiati nel mescolare culture, nel mescolare sapori e capacità ed esperienze. Che tipo di partecipazione c'è stata da parte dei rifugiati? Assolutamente calda. Noi abbiamo, intanto siamo partiti da allacciare una partnership che abbiamo proposto quest'inverno a Italy, a Oscar Farinetti, e che il quale è stato subito entusiasta ma non solo entusiasta. Abbiamo scoperto poi anche che a Italy attualmente effettivamente lavorano accanto a tantissimi italiani anche tanti rifugiati, e quindi è risultata una cosa naturale dimostrare proprio la realtà della condivisione nelle piccole cose, nelle cose quotidiane di ogni giorno, come quello di mettersi ai fornelli assieme e lavorare assieme, fianco a fianco. Sono veramente decine di migliaia gli italiani che fanno questo ogni giorno nei più vari settori, ma il cibo chiaramente è meraviglioso per poter aprire questa conoscenza a tutti gli italiani, per poter anche guardare al rifugiato in una maniera diversa, ossia come qualcuno che offre qualche cosa di buono, di così diretto, senza filtri, che può essere gustato con uno dei sensi più importanti e più immediati che abbiamo, come appunto quello che ci permette di gustare il cibo. Come up to meet you, tell you I'm sorry. La prima edizione, quella di Parigi l'anno scorso, giugno 2016, ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone che hanno assaggiato i piatti preparati da questi chef rifugiati in 11 ristoranti che hanno aperto le loro cucine e cambiato i menù per l'occasione. Dove in Italia invece e quando sarà possibile assaggiare questi piatti e venire a contatto anche con una realtà di cui sentiamo parlare sempre, ma forse è distante dalle persone? Sì, certo, e il cibo ci permette di avvicinarlo alle persone in un modo che è, amichevole e molto naturale. Allora, grazie appunto alla partnership con Italy, noi avremo queste cene che sono aperte a chiunque, ai clienti che vorranno recarsi e gustarle, il 16 di giugno con Viviana Varese, che è una chef stellata Michelin, che cucinerà insieme a una rifugiata, il Ganesh Etiope, a Italy Smeraldo dalle 6:30. Poi di nuovo a Milano ci sarà il 20 di giugno, ci saranno tante cene preparate da diversi rifugiati, e a Italy Roma. Ma prima del 20 di giugno, il 18 ci sarà questa stessa esperienza con rifugiati afghani e siriani a Bari, e poi dal 23 e poi anche il 30 di giugno a Firenze, a Borgo San Lorenzo, dove ci saranno tanti ristoranti che cucineranno insieme ai rifugiati. Quindi tante occasioni, e gli introiti di queste cene a chi andranno? Non è una raccolta fondi, è una vera e propria attività di lavoro, per cui i rifugiati vengono pagati normalmente dai ristoranti o da Italy, e gli introiti vengono quindi equamente ripartiti fra i ristoranti e i rifugiati. Oh, take me back to the star. Pensa che addirittura a Venezia noi abbiamo un'esperienza di un rifugiato afghano che alcuni anni fa ha iniziato aprendo un piccolissimo ristorante che si chiama Orient Experience, e ha iniziato ad andare bene. Adesso lui assume italiani, ma non solo. Ogni anno offre anche dei contratti di apprendistato agli studenti, che siano italiani o stranieri, non importa, delle scuole alberghiere, e la sua catena si è ampliata. Quindi diciamo, quando si tratta di lavoro, il punto principale è quello della collaborazione, quello del mettersi assieme, fare società e far crescere un'impresa, al di là di tutte le polemiche politiche che ci possono essere. Questa è diciamo la realtà del fare, non del polemizzare. E dopo parleremo più tardi proprio di questa esperienza veneziana con il protagonista di questa esperienza. Noi crediamo che questa, soprattutto della formazione chiaramente, e poi del lavoro, sia la strada maestra, è la strada sana della legalità ed è la strada che poi porta anche benefici al nostro paese. Prima di salutarti, qual è lo stato dell'arte per i rifugiati in Italia dal punto di vista dei dati, dell'accoglienza? Lo stato dell'arte è quello comunque di un paese che sta facendo tantissimo e non nascondiamo la fatica, la difficoltà, perché chiaramente di fronte a situazioni di grande instabilità al di là del Mediterraneo sono ancora tante le persone che arrivano in maniera irregolare e che hanno bisogno di grande assistenza, anche perché arrivano in condizioni spesso terribili dopo aver subito torture, abusi. Quindi l'assistenza anche che dal nostro paese non può certo limitarsi solamente a un bicchiere d'acqua e dei vestiti, ma richiede un impegno di medio-lungo periodo, e questo l'Italia lo sa. Si è assunta una responsabilità a tutto tondo, ci sono degli elementi anche nell'accoglienza che sappiamo, e l'Italia sa, non funzionano, e finalmente si comincia a indagare e a sanzionare, ed è quello che abbiamo chiesto per anni. Ora la questione è che appunto bisogna guardare a quello che sarà fra 5, 10, 15 anni, quindi l'elemento dell'integrazione è il punto cruciale. Ma su questo l'Italia non può essere sola, è quello che c'è oltre l'Italia, sono gli altri paesi europei che in alcuni casi, non in tutti, in alcuni casi non stanno effettivamente partecipando a questo grande sforzo, e questo è un grosso problema. Grazie a Carlotta Sami, portavoce UNHCR Italia, Agenzia ONU per i Rifugiati. Grazie a voi. Ci fermiamo brevemente e torniamo a parlare del Refugee Food Festival tra pochissimo. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh, vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione! Fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro! Ve lo giuro! Ed eccoci ancora con voi a parlare di integrazione, di cucina. C'è profumo di spezie a Radio 24, spezie che arrivano dall'Africa, perché una delle partecipanti al Refugee Food Fest 2017 è la signora Aganesh, rifugiata dall'Etiopia, che farà lo show cooking con la chef Viviana Varese di Alice Ristorante a Milano presso Italy. Tanto benvenuta. Ok, grazie. Ci racconta innanzitutto qualcosa di lei. Quando è arrivata in Italia e perché è scappata dall'Etiopia? Prima mia famiglia vogliono scegliere un marito. Io non voglio per sposare questo marito, perché sono già scappata. Volevano farle sposare una persona che lei non voleva. Sì. Quando ha iniziato a cucinare? Cucinavo anche con mia mamma a casa. Io ho studiato con lei, perché sempre io vicino di lei, cucini con lei. Aganesh lavora a Venezia abitualmente come chef in un ristorante particolare, Africa Experience, in Calle Lunga San Barnama 2722. Abbiamo con noi uno dei proprietari, uno dei soci che ha fondato il primo ristorante africano a Venezia, Adi Nuri. Benvenuto. Buonasera a tutti. Grazie Adi per essere con noi. Allora, il vostro è, abbiamo detto, il primo ristorante africano di Venezia, e la signora Aganesh è una delle tre chef rifugiate, no? Perché voi avete aperto l'autunno scorso e avete deciso di sperimentare la cucina con una signora appunto dell'Etiopia, un nigeriano e un ragazzo della Guinea. È così? Certo, certo, confermo. Come mai avete deciso di raccontare l'Africa attraverso queste persone? per dire che non siamo noi che rubiamo lavoro, non siamo noi che insomma portiamo le problemi in Italia, ma giusto vogliamo integrare in questa maniera qua e far vedere a tutti quanti che possiamo far vedere un qualcosa di bello, un qualcosa di interessante per i cittadini. E voi stessi come soci siete stranieri, eravate rifugiati in Italia? Certo, noi tutti quanti siamo ex rifugiati, tra me, che sono stato già presentato da parte vostra, poi c'è Ahmed Ahmadi, che è praticamente la mente geniale di tutto questo percorso, che ha aperto anche altri due ristoranti come Orient Experience a Venezia. Voi due siete afghani, no? Siamo afghani, certo, ci sarebbe anche la madre di Ahmed, che è come la mamma nostra, come il cuoco, aiuta in cucina e prepara i piatti. Poi la quarta socia, c'è una ragazza iraniana che si chiama Mandanana Dimi, che viene dall'Iran. E la quinta socia è Samah, una ragazza egiziana, una nostra amica che è nata in Egitto però che è cresciuta in Italia, è praticamente un immigrato a seconda generazione. Insomma, una cucina che è un fusion di varie culture africane, no, la vostra? Certo. È semplicemente un menù che rappresenta il viaggio dei ragazzi rifugiati dall'Africa verso Europa. Ci dice qualche piatto particolare che viene molto richiesto e apprezzato nel vostro ristorante a Venezia? Certo, posso nominare magari lo zigni, che è uno stufato di manzo con le spezie etiope, che va servito sull'ingera, che è pane etiope, che viene dall'Etiopia, che lo fa al Ganesh, uno dei piatti che fa. Come secondo piatto posso nominare magari un chou, che è una spezzatina di manzo con le verdure accompagnate dal riso bianco che viene cucinato da Mohammed, è un piatto della Guinea. Un batate, è una lasagna fatta con purè di patate, carne macinata di manzo e purè di patate, che viene fatta dalla seconda, della mamma della un'altra socia, Samah, che anche lei è qua, abbiamo piacere che collabora con noi come la cuoca. Abbiamo due mamme che cucinano nella nostra praticamente cucina, è praticamente un piatto egiziano. Come è stata recepita questa novità del ristorante africano a Venezia? Venezia, che è una città particolare, è sempre stata il crocevia di diverse culture. Fortunatamente è stato ben accolto e praticamente nella sera di inaugurazione abbiamo accolto qua praticamente quattro volte più di quelli che immaginavamo. È stato molto, molto accogliente da parte dei veneziani, ringrazio tutta la città di Venezia per tutti quelli che ci conoscono, è stata un'esperienza unica la serata di inaugurazione e per il resto siamo andati avanti sempre pieno di clienti, pieno di gente interessante che viene a mangiare, a assaggiare i nostri cibi. Quindi un progetto che ha avuto successo, tanto che avete in mente di aprire a Padova a breve. Abbiamo in progetto un altro dei nostri soci che ha già insomma fatto un po' di lavori e se va tutto bene e non ci saranno dei imprevisti, a settembre avremo anche un posto e apriremo un Orient Experience a Padova in Piazza Capitaniato. Perché è importante che i rifugiati si esprimano attraverso la cucina? Ma non soltanto la cucina, praticamente l'obiettivo e la cosa migliore insomma, da fare è essere occupati o creare occupazione o dare occupazione in qualche maniera lavorativa per gli immigrati, in maniera che si possano esprimere ognuno nel suo campo. La cucina può essere un mezzo, i sapori, i gusti, i piatti possono essere un mezzo attraverso il quale comunicare, attraverso il quale capirsi. Assolutamente, il mezzo nostro è il nostro menù, i nostri piatti praticamente sono quelli che parlano con i clienti. Ogni piatto ha la sua storia e parla di un viaggio. Adi, anche lei da minorenne addirittura è stato rifugiato, no? Era in Italia. Sono partito da casa che avevo 15 anni e sono arrivato in Italia quasi dopo un anno e due mesi. E quindi sono arrivato in Italia che avevo già 16. Un viaggio incredibile per un adolescente. Un viaggio incredibile per un adolescente, però non è, però purtroppo ci sono miliardi e migliaia di persone che lo fanno giornalmente per via della guerra e difficoltà del posto in cui chi stanno vivendo e non hanno un minimo di pace. Perciò gli tocca fare questo viaggio. Non è assolutamente un piacere, non è assolutamente un'avventura, però un viaggio che bisogna farlo per salvarsi la vita. Lei ha lasciato la sua famiglia, immagino, quando è partito a 15 anni. Certo, certo. Immagino uno strappo dolorosissimo. Ma da non credere, sì. Che poi sono partiti anche loro dietro di me, perché ovviamente se la vita non era, insomma, adeguato e indegno per una vita normale per me, ovviamente non sarà stato neanche per i miei genitori. Perciò anche loro dopo di me sono partiti e sono venuti verso l'Europa. E dove vivono adesso i suoi genitori? In questo momento i miei genitori sono in Finlandia. Ovviamente per noi è un po' difficile scegliere l'obiettivo, scegliere la destinazione, perché non è un viaggio in cui uno prende l'aereo e dopo un paio di ore arriva alla destinazione. Ovviamente noi partiamo per arrivare a un posto migliore, per creare una vita migliore, per vivere un po' in pace. Però anche la mia scelta non era Italia, però dato che sono arrivato qua ormai dopo un anno ero stanco anche di viaggiare, e sono rimasto in Italia con piacere, nel senso che ho scelto di rimanere in Italia e sono assolutamente soddisfatto della mia scelta. Ci racconta in breve, chiaramente, però questo viaggio è partito a 15 anni e diceva un anno di viaggio. Certo, sono partito dal Teheran, non dall'Afghanistan. Quindi dall'Iran? Dall'Iran, certo. Sono partito là via terra, sono venuto verso il Turchia, ho fatto via praticamente montane, via camion o a piedi. E tratto per tratto mi sono fatto arrivare a Istanbul e sono rimasto in Istanbul per un paio di settimane, da lì sono riuscito a concordarmi con degli altri amici. Il viaggio che si fa solitamente per passare il confine, arrivare in Grecia e tramite le barconi o gommoni e via mare e via acqua. Praticamente siamo riusciti a concordare con altri 5-6 ragazzi come me, abbiamo acquistato un gommone e ci siamo buttati in acqua verso Grecia. Ci abbiamo messo quasi 8 ore a remare e siamo arrivati in Grecia, in una isoletta di Grecia, e lì ho visto il mondo davanti di me, che non conoscevo nessuno e dovevo arrangiarmi e ho iniziato, insomma, a darmi da fare. Sono riuscito ad arrivare fino a Grecia e non riuscivo più ad andare più avanti, perché non avevo neanche un soldo, tutto quello che avevo risparmiato avevo portato da casa mia, praticamente era già finito. Perciò sono rimasto un anno ad Atene a lavorare, a guadagnare soldi e per poter continuare il viaggio. La cosa che fanno tutti, per quello che noi abbiamo fatto questo menù in ristorante, perché è un menù che ci richiede il tempo. Ci sono dei stranieri come me o come altri ragazzi che per un periodo lungo, può essere da un mese, due o anni, rimangono in un paese dove devono vivere, dove devono arrangiarsi, dove devono mangiare, e perciò un po' di nostalgia di casa c'è sempre, perciò devono cucinare un qualcosa di casa loro, così ho un piatto nuovo, un piatto che rappresenta il mio viaggio. Perché il vostro menù rappresenta le origini dei vostri cuochi, ma anche le tappe del loro viaggio, certo, per arrivare in Italia, in Europa. Certo. Adi, lei quindi era uno di quei minorenni, certo, che viaggiano soli, che arrivano in Europa da soli. Certo, certo. Ha pagato per arrivare in Europa, in Italia? È chiaro, perché... Quanto ha pagato, si ricorda? Non mi ricordo bene, comunque non è una cifra, non è poco. Sempre si parla su ogni confine di 3-4 mila euro, di 5 mila euro. Per passare. Cioè ogni confine per passare bisogna pagare. Purtroppo sì, è così, altrimenti nessuno può andare avanti. Praticamente tutta la gente che vive in guerra, vive in difficoltà e non ha minimo di pace, cerca di vendere, cerca di raccogliere tutto quello che ha. Per poter viaggiare e arrivare a un posto più tranquillo. Ha pagato anche dei trafficanti di uomini perché l'aiutassero, immagino. Indirettamente sì. E questa attraversata del mare era la fase più pericolosa o ce ne sono state altre? No, direi quella più pericolosa è stata quella via mare, perché 8 ore con un gommoncino, che si immagina che noi con un gommone di 5 persone abbiamo fatto un viaggio chilometri praticamente. Quando lei è arrivato aveva 16 anni ed era ancora minorenne. Come certo. È riuscito a cavarsela? Sono stato accolto da una comunità per minori stranieri qua a Mestre, quindi sono riuscito a lavorare in un'estate e mettere via un po' di soldini, perché e poi quando sono arrivato, insomma, ho compiuto i 18 anni, sono diventato maggiorenne e dovevo vivere per conto mio, perciò sono riuscito giusto per guadagnare i soldi per affittare una casa, una stanza, e per poi arrangiarmi, e fortunatamente sono riuscito anche a trovare un secondo lavoro dove potevo permettermi, insomma, di pagare le mie spese e vivere come una persona normale. Ma l'unica cosa che mi dà la forza e continua a darmi è la cosa che non sono riuscito ad avere nel mio paese, la pace e il lavoro e una vita sana. Perciò quello rimane sempre in mente a me, e praticamente ce l'ho tutti i giorni in testa e nelle orecchie, per poter, insomma, giorno per giorno cerco di vivere meglio, di creare un qualcosa che non sono riuscito a fare nel mio paese, e spero tantissimo che un domani io possa tornare e creare tutto ciò che ho fatto qua in Italia, tutta la fatica che ho fatto qui, di mettere in funzione in qualche maniera nel mio paese per poter costruire quel paese, perché è peccato, perché se giorno per giorno la gente viaggia e viaggia, alla fine un paese può anche morire. Ci saluta in veneziano. Vi mancherei alto, saluto tutti quelli di Venezia e spero di vedervi qui in ristorante e magari facciamo due chiacchiere qua da vicino con un gotto di vino e stiamo bene. Bene, grazie a Adi Nuri del ristorante Africa Experience in Calle Lunga San Barnaba a Venezia. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto e vi ricordo che avete modo in diverse città italiane di andare ad assaggiare i piatti dei rifugiati in Italia per questa seconda edizione del Refugee Food Fest dal 15 al 30 di giugno. Per quanto ci riguarda, invece, l'appuntamento è sempre per sabato alle 23. Cena molto tarda, ma menù interessante. Vi aspetto sabato prossimo. Ciao da Valentina Furlanetto. Buona serata. You've got to give a little. That's the glory of love.